12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi scopriremo cosa vuol dire fare il fotografo. Proveremo a capire qual è il percorso da intraprendere e quali sono i requisiti che bisogna avere e come muoversi in questo settore per poter trovare impiego. Avremo ospiti Alessandro Donaggio e Simone Falso, fotografi, che ci racconteranno la loro esperienza e i quali chiederemo di darci qualche consiglio. Come sempre abbiamo provato a fare una breve ricerca sulla professione del fotografo e quello che abbiamo capito è che questo tipo di mestiere rientra nella categoria di lavori che può essere definita lavori creativi. Infatti da un'indagine condotta da ISFOL, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, per svolgere questo tipo di lavoro le caratteristiche che vengono richieste innanzitutto sono innovazione, attenzione al dettaglio ed iniziativa, ovvero bisogna avere creatività ed immaginazione, cura del dettaglio e accettare sempre nuove sfide. Ci sono moltissimi campi in cui un fotografo può specializzarsi, ad esempio ISFOL elenca architettura, moda, scenografia, grafica, industria, pubblicità, ritrattistica e subacquea, ma sicuramente l'elenco potrebbe essere molto più lungo. Abbiamo detto che il lavoro del fotografo richiede creatività, immaginazione, iniziativa. Si tratta insomma di caratteristiche e qualità personali, ma per fare questo mestiere non è solo questo ciò che serve. Bisogna avere delle competenze tecniche specifiche che si possono acquisire partecipando a corsi, workshop e seminari, se non addirittura corsi di laurea e master. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver dato un quadro generale di questa professione, diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Alessandro Donaggio, al quale chiederemo di spiegarci cosa vuol dire veramente fare il fotografo. Ciao Alessandro, benvenuto a 12 minuti. Ciao, grazie. Ciao. Alessandro, di cosa ti occupi esattamente? Allora, io sono un fotografo, mi occupo di fotografia principalmente di matrimonio e privati. Quindi significa sì, reportage di matrimonio e ritratti di privati e poi anche altri lavori di still life per aziende e prodotti, insomma. Ecco Alessandro, per arrivare poi a fare questa professione, qual è stato un po' il tuo percorso formativo? Diciamo, il mio percorso formativo è stato, diciamo, un po' diverso da quello classico, canonico del fotografo, nel senso che ho studiato comunicazione a Milano, mi sono laureato allo IULM di Milano e poi, diciamo, è venuta fuori come passione la fotografia lì, analizzando un po', così respirando un po' l'aria della pubblicità e poi ho seguito dei corsi, diciamo, dei corsi sul ritratto e sullo still life per poi diventare professionista e associarmi a un'associazione che si chiama FIOF e da lì ho fatto dei corsi specifici, insomma, per diventare professionista. Ecco, quindi da un percorso, diciamo così, universitario non proprio legato, poi ecco, hai partecipato a delle attività formative specifiche che ti hanno poi avvicinato a questa professione. Ecco, Alessandro, ma appunto dallo studio, dalla formazione al lavoro, cioè com'è cominciato proprio a svolgere questa professione? Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere diciamo, delle persone che mi circondavano che erano già fotografi e quindi mi hanno dato qualche indicazione e quindi avevo, diciamo, la mia fidanzata, che attualmente mia moglie, era fotografa di matrimonio e quindi abbiamo unito le due cose assieme e lei, diciamo, è partita, diciamo, da una grande passione per la fotografia e poi è diventata lavoro prima con dei piccoli lavori così, e poi con il passaparola, finché con, diciamo, dei corsi si è approfondito un po' l'aspetto tecnico, ma è sempre stato affiancato da passione, quindi passione porta a informarsi, porta a studiare anche da autodidatta, diciamo, quindi affiancare sia il percorso, diciamo, formativo istituzionale a uno personale, che spesso è molto importante. Ecco, quindi se io ti chiedessi, non so, di dare un consiglio a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, forse appunto mi parleresti un po' di approfondire, di partire da una passione e poi appunto andare sempre più ad approfondire, a migliorarsi. Cosa diresti? Sì, sicuramente io direi che inizialmente sì, si parte proprio da una passione e da un desiderio, e direi di affiancare sempre grande sperimentazione, quindi il lato, diciamo, pratico e tecnico, a uno culturale, quindi informarsi, guardare, osservare. Cioè la fotografia è anche comunicazione, quindi alla fine osservare altri fotografi, mostre, pubblicità, film, cioè con una foto comunichiamo, quindi bisogna sapere anche cosa si vuole dire, e quindi c'è anche cultura, bisogna che sia anche una base culturale oltre che tecnica, insomma. Assolutamente. Alessandro, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e per i consigli che ci hai dato. Grazie a voi, spero possano essere utili a qualcuno. Assolutamente. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi rientriamo qui in studio e continuiamo a parlare del lavoro del fotografo. Per questa nostra storia d'anni in penitenza, anni in difesa, indipendenza, senza dirlo mai. E tu la chiami storia, ma sembra un labirinto. Senza cercarci, senza vederci, poi ritorniamo qua. In un secolo, in un'ora o in un attimo, è sempre il tuo sguardo contro il mio. Mi racconta la tua storia, che però diventa anche la mia. Mille anni fa, da domani storia di giochi d'egoismo, perdiamo in due ad ogni sfida di protagonismo. Ne ho viste già di storie io, che sfidano gli eventi e il mondo intero. Il nostro incontro da grande record segna un'epoca. In un secolo, in un cuore ti accorgi che ti amo. Della storia non la voglio vedere. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Oggi stiamo parlando della professione del fotografo, cercando di scoprire insieme ai nostri ospiti che cosa vuol dire esattamente fare questo mestiere, quali sono le competenze richieste e come apprenderle, e infine come entrare in questo settore lavorativo. Diamo quindi subito il benvenuto al nostro secondo ospite, Simone Falso. Ciao Simone, benvenuto a 12 minuti. Grazie, buongiorno a tutti. Simone, di cosa ti occupi esattamente e cosa significa essere un fotografo? Io mi occupo di fotografia da 12-13 anni, ho iniziato col fotogiornalismo, adesso è da un po' di anni che non lavoro più in quell'ambito lì e mi occupo più che altro di cinema, di fotografia nel cinema e poi da 5-6 anni insegno fotografia. E quindi diciamo mi occupo di fotografia anche da questo punto di vista, diciamo dal punto di vista di insegnamento, ecco, questo un po' ecco, brevemente quello di cui mi occupo. Certo, Simone, ecco, cosa significa veramente essere un fotografo? Cioè cosa qual è poi effettivamente l'attività che si va a svolgere, no? Perché magari un giovane pensa a questa figura professionale, ma poi nel concreto. Ma insomma, diciamo che lo scatto fotografico, cioè il premere l'indice sulla macchina fotografica, è un momento molto marginale dell'essere fotografo, che è fatto soprattutto di relazioni con le persone, di stendere dei progetti, di avere delle idee, saperle esprimere, saperle realizzare. Quindi è un lavoro che è fatto molto di preparazione attenta, di riuscire a capire chi si ha di fronte, che cosa ci si aspetta dalle fotografie che si fanno, che tipo di fotografie sono richieste, per cui tutte quelle parti diciamo che non fanno parte proprio dello scatto fotografico, quindi del momento della fotografia, sono essenziali per il mestiere. Ecco Simone, all'inizio accennavi alla tua attività anche di insegnamento, no, della fotografia. Sì. A livello formativo, qual è stato il tuo percorso e quali sono, ecco, poi appunto le competenze, le capacità che vengono richieste ad un fotografo? Beh, io in realtà, diciamo, mia madre ha fatto anche un po' la fotografa, per cui lei insegnava educazione artistica, si occupava un po' di fotografia. Io da bambino ho sfogliato molti libri di pittura e di fotografia, mi hanno aiutato molto a interessarmi all'argomento. Poi io ho studiato al liceo artistico, poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ho studiato anche in una scuola, si chiama Hochschule des Kunst a Berlino, e poi mi sono formato un po' a Londra, però alla fine dell'università, insomma, più come esperienze lavorative, insomma, però lo ritengo una formazione anche quella. Esperienza londinese, ho vissuto 4 anni lì a lavorare comunque. Certo, ecco Simone, che consigli ti sentiresti di dare ad un giovane che volesse intraprendere questa carriera in merito a come muoversi, quali sono i canali e le possibilità per accedere a questa professione? La fotografia è un mestiere oggi molto complesso, che ha tantissime sfaccettature, quindi darei un consiglio io di le persone che vogliono intraprendere questo mestiere dovrebbero, come dire, capire che tipo di fotografia può interessare, perché c'è la fotografia di moda, di still life, di reportage, la fotografia nel cinema, la fotografia industriale, la fotografia e quindi già capire qual è come dire l'area di interesse è un passo avanti e poi entrare in relazione con le persone che possono comunque dare delle opportunità di lavoro è molto importante, e presentare dei bei progetti, avere delle belle idee è importante oggi, perché per quanto riguarda le capacità tecniche, le tecnologie ci stanno aiutando moltissimo, per cui probabilmente viviamo in un'epoca in cui è importante avere delle idee geniali, di sicuro l'intraprendenza in questo mestiere è importante. Simone, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi e per tutti i consigli che ci hai dato. Grazie a voi. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi sta pensando quindi di avvicinarsi a questo settore e intraprendere questa carriera, vi segnalo alcuni link utili e appuntamenti da non perdersi. Corso di fotografia all'Istituto Europeo di Design, che organizza corsi triennali post diploma, corsi master e corsi di specializzazione. Per info potete visitare il sito www.ied.it. Corso di avvicinamento alla fotografia per chi desidera apprendere le tecniche fotografiche di base, organizzato dalla Fondazione Arte Vision di Mestre. Per info potete visitare il sito www.artevision.it. Concorso fotografico Dipendenze, diversi occhi, diverse percezioni, promosso dal Servizio per le Tossicodipendenze di Ferrara insieme al CSV Agire Sociale, Centri Servizi per il Volontariato e il Grattacielo 183, punto d'ascolto sulle dipendenze. Scadenza per l'invio è fissata per il 17 maggio 2013 e se volete avere maggiori informazioni potete scrivere a concorsodipendenze@gmail.com. Concorso internazionale di fotografia Obiettivo Venezia, promosso dall'assessorato al turismo della città di Venezia in collaborazione con il consorzio Promo Vetro Murano. Il concorso si sviluppa in due categorie, città di Venezia e vetro di Murano, ed è possibile partecipare fino al 30 aprile 2013. Per informazioni potete scrivere a ufficio.stampa@comune.venezia.it o visitare il sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.